Ben proveranno, nel giorno dell'universal giudizio, i prelati e deputati ad assistere a tali funzioni, se non le convenisse meglio titolo di finzioni. I tormentosi rimproveri della loro coscienza circa questi particolari. Allora molti avranno da pentirsi d'aver in questo modo chiusi gli occhi sopra questi interessi per la sola ragion di Stato, che è una scena ingannatrice che addormenta gli occhi dei più savi. Un'ombra infernale, una contraffatta chimera del diavolo, un mostro nemico, anzi, distruttore delle buone e sante operazioni, un'infamissima magia macchinata dall'ambizione che riempie gli ori di sepolcri, dei chiostri, di misere e di innocenti donne. Ma torniamo alla tradita fanciulla che, già accettata fra le monache, per altrui violenza, non per propria volontà, si spoglia ad ogni adornamento, entra in angusta e povera tonicella, sadata al fianco, rozza cintura di cuoio, con la scuffia in testa, che all'uso di questa patria, nelle altre donne, è un lugubre contrassegno della morte dei cari mariti, dà principio ai suoi infausti Imenei, si copre di quella veste che viene detta il primo abito. Ciò eseguito, eccola sottoposta all'obbedienza, che ad esse riescono di maggior carica di quella che si impone al dorso dei dromedari. Ognuna, sia di stirpe o volgare o nobile, è posta ai più vili esercizi e alle più immonde funzioni. Ah, che se fosse lor proprio moto ed elezione, potrebbero anch'esse lietamente cantare con quell'angioletta del paradiso monacale, tanto il bene che aspetto che ogni pena in diletto. Sariano pur dolci e tamabili le fatiche, e fra gli eserciti di una santa umiltà, che non mai abbastanza è lodata, provarebbero gusti e consolazioni di cielo. Ma, astrette dalla tirannia e superbia dei padri e parenti ad operare contro la loro volontà, ben si può considerare da chi ha intelletto se elle possano essere capaci di quel merito conceduto solo a chi travaglia e volontaria patisce. E poi vi persuadete, o genitori, d'avere da schivare i giusti fulmini eterni mentre usate tanta crudeltà contro le vostre figliole e siete, senza alcun loco merito e demerito, fra di loro parziali? Volete che una viva fra gli agi e pompe del mondo e che le altre stiano miseramente chiuse fra mille stenti e infelicità? Con che core credete voi che taluna di queste veda l'altra sorella che, destinata a sposo carnale, pompeggia nelle delizie e trionfa, per così dire, tra mille lussi e grandezze? Questa, non tantosto chiuso il matrimonio e sparse nella fama, depone ogni semplicità d'abito e s'adorna di ogni vanità. Non si tralascia foggia moderna per rinfrascarla, il crine si sbiondeggia, si inanella, gli ori, le gemme sono chiamati ad arricchire la costei bellezza, se la consegna insino un maestro perito che gli insegni i modi di carolare, a ciò in lei né anche i moti siano senz'arte per attraere a suo tempo gli occhi e l'anima dei riguardanti. L'altra, infelice, priva della chioma donatale dalla natura, fra quattro cenci di povera lana, vien venduta per ischiava senza sperar di mai più liberarsi. Quella, nei guardi brillanti e lascivi, dà segno dell'allegrezza del cuore. Questa, con lacrime a forza ritenute, non solo racchiude in seno l'amarezza, ma imprime nell'animo di chi la mira la mestizia. Quella esce di soggezione, questa entra in prigione. Se per sorte tal un padre di poca levatura cava di monastero l'afflitta sotto nome di condurla ai sollazzi e lascia che la veda i tripudi e bagordi del mondo come molti fanno, ad altro ciò non le riesce se non a contristarla per vedersene private e le cose vedute le restano impresse nella memoria per un eterno tormento e appunto divengano i tantali dell'inferno monacale. Mentre hanno presenti l'acque senza poterne gustare una minima stilla, onde restano maggiormente accese di quella sete che l'affligge per tutta la loro vita. Ad altre, poi, che non mai escano di casa, con pretesto che non sii decente a figlia onorata andar vagando, vengono date ad intendere mille bugie. Si fa lor credere che le pietre volino, che poca differenza sia fra un orto piccolo e una gran villa, che tutte le cose, senza avere una differenza, siano simili l'una all'altra e che, insomma, tutto il mondo sia ristretto nella similitudine di quelle poche che le vedono. E seppur le fanno capitare in qualche chiesa, studiando che siano quell'ore nelle quali davvero un so frequentate. Ed infine, con queste meschine non si tratta se non con inganni e frodi, di modo che, o nell'uno o nell'altra maniera, sono sempre tradite e maltrattate dagli empi padri, che in tale occorrenza procurano d'esercitare con ogni potere il loro avaro talento, e tutto ciò che in tutta la vita hanno imparato d'economico ed arte di risparmio, viene da loro effettuato nel vestire l'abito religioso, le figliole. Le madri, anch'esse per compiacere al marito, concorrono con ogni studio e sforzo in stiracchiare le spese e pesano il tutto alla sottile sopra la statera dell'ingiustizia, per poter poscia più prodigamente scialacquare il beneficio delle destinate a nozze mondane. Non si trova già legge per la quale abbiano più ragionevoli pretensioni le maritate che le monacate sopra le case dei loro parenti, essendo e l'una e l'altra legittime, né possono arrogarsi di quelle che queste. Ma l'ingiusta parzialità dei genitori determina a suo piacere, contro ogni ragione, la di costoro malvagità è tale e tanta che genera meraviglia e compassione in chi la considera. Si può sentire più parziale e sproporzionato affetto, mentre che il merito, le ragioni e pretensioni sono uguali e indifferenti nelle figliole. Si trova talora, in qualche una di queste diaboliche abitazioni, quattro o cinque femmine tutte generate d'un stesso seme, per quanto appare, e partorite da un solo ventre, cada una delle quali sarà vogliosa di godere i lumi di questo cielo, e niuna di loro può disporre del suo volere e libero arbitrio, perché è forzata a dipendere del suo volere dalle paterne e interessate determinazioni. I padri e fratelli, che sono giudici ingiusti, parte per non scaricare gli scrigni di tesoro e privar di comodi superflui le case loro, trattane una sola, condannano tutte le altre al perpetuo labirinto di un chiostro, e altri le seppelliscono tutte, e per prolungare quanto più sia possibile il privarsi delle amate ricchezze, vogliono che l'ultima uscita alla luce resti a goderla, non avendo riguardi ai privilegi della primogenitura, che, sino nel testamento vecchio, viene dichiarata per meritevole di qualche vantaggiosa condizione. Esaù, che, astretto dalla fame, vendé al fratello la primogenitura per una scodella di lenticchie, meritò dall'apostolo nome di profano quando, scrivendo agli ebrei, disse: aut profanus ut Esaù, qui propter unam escam vendidit primituia sua. Segno questo espresso che è molto degna d'essere stimata la condizione. Questa fu la cagione per la quale nel parto di Tamar la levatrice legò con un fil rosso il braccio di Zaran, perché fosse conosciuta la di costui superiorità sopra l'altro fratello. Non mi mancherebbero altre prove per dinotare che i primi nati devensi tenere in pregio sopra gli altri, ma ad altro fine si gira la mia penna, e a me basta ciò, l'aver toccato così di passaggio per accennare l'umane barbarie di questi tiranni che io descrivo, e la, purtroppo contra suo costume stabile, ma iniqua fortuna delle imprigionate dal costoro inganno, che non instabile, varia e diversa, come dai poeti viene descritta, ma costante e perpetua riesce a questa sorte, essendo il loro stato impermutabile a qual si voglia accento. Sì, come stimo, che chi la descrisse cieca e sorda agli altrui pregi, ragionasse della fortuna delle sore ingannate, alle cui esclamazioni non mai si rende mutabile, non mai dopo le nubi s'attendono serenità, varian pur le stagioni, e gli anni, le loro vicende. Da ciò allor nascano mille pensieri di disperazioni, e se le mancassero a farsi schermo con la prudenza, impazziriano. Di loro si può ben dire, felici quei che sono così prudenti, che san col tempo accomodar la vita. Immaginati qual torbidi pensieri stiano confusi in quei cori, ci han veduto giudicarsi con tanta ingiustizia. Vedono la sorella, a loro infima d'età e sovente di merito, notare in un mare di piacere e gusti, e la scoprano doviziosa di comodi e di tutto ciò di buono che può e sa dare il mondo, ed indi rivolgono la considerazione a se stesse, e si vedono trattate con tanta differenza, sepolte prima d'esser morte, ricche di disagi, ed astrette a servir, a pare e patire. Non è lingua o penna bastevole a narrar l'interne passioni che agitano il loro animo. Dicono con Geremia: quis salit capiziones Aquam et oculis meis fontem lacrimarum. I padri e congiunti, dopo averle trattate peggio che da serve, proseguono in affliggerle sentendo ancora gli aggiustamenti della dote, procurando di restringere le spese di vestimenti e banchetti e musiche necessarie, e le madri coprono a queste durezze per tema del marito, il quale volle avvantaggiare ed avanzare in pro della privilegiata da maritarsi. Scelgono le più grosse e ruvide tele per le camise delle sventurate, che sovente non riescono di bastevole lunghezza e le maniche sono a taluna diverse dal rimanente, per poter poscia con prodiga mano adoprarsi che le prime spoglie destinate al maritaggio siano di finissimi bissi d'Olanda, adornate di punti in aria e guarnite dei più ingegnosi lavori che mandi la Fiandra a questi nostri lidi. Due sole di queste potriano stare di prezzo in equilibrio a tutti i mobili e t'altre cose della monacata. Il vestito, delle più infime parti, nonché altro, è ricco di ricami, a cui succedono legami pomposi d'oro che stringono alla gamba il superbo e serico coturno, la superba e gentilissima calzetta che più e più vagliono intieri tesori le pianelle, guanti, fiocchi, stringhe della destinata a sposo terreno. Le più preziose perle dell'Oriente sono chiamate ad adornarle il collo. I grossi e lucidi diamanti fioriscono in forma di rosa per cingerle le dita. Gli ori, sottilmente lavorati da industre mano, le pendano dall'orecchio e non v'è lusso, delizia o dispendio superfluo che non concorra alle di costei stifazioni o grandezze. Si vegono sulle mense cibi poco inferiori agli apprestati nelle cene di Cleopatra, ma che il contrario. La condenata alla tomba d'un chiostro è necessitata a coprirsi la gamba di rozza rassa e adattarsi ai piedi un zoccolo di legno mal vestito di cuoio, e cingersi al collo un bavaro così nemico della ricchezza che la priva di tesori donatili dalla natura. Esercita le mani intorno esercizi vili e immonde schifezze, è bisognosa insino d'un infelice ago spilla e fra poveri cenci va mendicando insino il suo proprio valere per valersene. Ma, essendole annegato o prolungato il dargliene, resta a penare fra i suoi disagi. Oh, qual parzialità ingiustissima! Ben si può dire a questi tali padri e parenti, o pleni omni dolo et omni fallacia. Fili diavoli, inimici omnis justitie. Quanto però sono scarsi i tenaci dell'esborso di ciò che hanno promesso, sono altrettanto prodighi di promesse per condurre gli infelici all'ingresso di quella porta dalla quale mai più si concede loro l'uscita. Lor promesse di fe come son vote. Omnis homo mendax. Sono tutti gli uomini mendaci in ogni occorrenza, ma quando si tratta di assassinare una di queste misere, son più di mai bugiardi e mentitori. Promettono fornimenti di cella, magnifici e sontuosi, tutto ciò che han di bello e gentile in casa, le dicono, sarà tutto tuo. Poi si riducono a due casse delle più tarlate, apportando per iscusa che non è dovere lo sfornir le camere, ma che poscia ne faran fabbricare ad eccellenti maestri. E così di ogni altra cosa avviene, ma tutte le loro speranze finiscono nel rimanere elle tradite dalle bugie di costoro, quali, non contenti di tanta crudeltà, irridono anche l'infelicità di quelle mal condotte. Almeno questi perfidi non nutrissero con fallaci promesse la loro aspettazione e si raccordassero che Plutarco dice che il mentir è vizio abominevole, servile, indegno di perdono e che merita essere da tutti odiato. L'Eccellentissimo dice noli amare mendacium, diede precetto che pacta semper et promissa servanda sunt qui nec vi nec dolo male facta sunt. Ma non è meraviglia che così poco stimino il vizio dell'ingannare coloro che sono l'idea d'ogni impietà. Preparano per lettiera quattro pezzi d'alboro, più in forma di cataletto che d'altro, a colei che vogliono seppellir viva. Si sospira sino il nolo di quella gioia che serve a dar contrassegno all'infelice che la va nella sepoltura, e gli avari maledetti lagnarsi di quel poco denaro che perché studiano tutti i vantaggi che si possono imparare nelle scuole di una sordida tenacità. Se le destina il più duro e rozzo letto di casa con ogni concernenza più vile, dicendo che a religiosa sposa di Cristo non son decenti gli agi superflui o addobbamenti vani. Ma poscia, con questi scrupoli inopportuni e diabolici, non avranno riguardo in altra occorrenza ad usurparsi i beni della Chiesa. Sono simili a Dionigio che, fingendo di far stima dell'onor del dio Esculapio, gli levò la barba d'oro, con dire simulatamente che era vergognoso che il padre Apollo fosse sbarbato e che egli, che era il figliolo, paresse vecchio. Così questi ipocriti, posseduti dal diavolo, mostrano zelo del culto di Dio e concorrono a procurare che nella religione sia usata una parsimonia estrema, non volendo accorgersi che la povertà deve essere abbracciata dalle religiose volontarie, non dalle violentate dalla loro tirannide. A che non sono parziali della santità ed osservanza della religione. E i loro fini non sono giusti perché, se fossero tali, saprebbero anche che non è lecito ai mondani l'usar lussi superbi e più de povere pomposi. E così, per la figliola o sorella maritata, non si preparerebbero lettiere di finissimo argento, coperte di trabacche cariche d'oro, si lascariano le tappezzerie soverchiamente industriose con tant'altri superfluità di gentilezze, odori, giardini, gondole, livree. Musiche, commedie e mille sensualità quasi oscene che si inventano per appagare e satollare ogni brama e sentimento di colei che è destinata alle lascivie. E se ben poi sovente, per flagello di Dio, questi piaceri e grandezze finiscono in breve spazio di giorni, non è per questo che dal parzialissimo padre non siano procurate ad ogni potere per lunghezza di tempo alla troppo amata figliola. Quando si tratta di maritare una di queste tali, non si tralascia diligenza in cercare se vi sono suocera, cugnata o altre che possano impedirle l'assoluta patronanza. La brama non sola a ciò sia signora del tutto e non abbia di che contendere con altre donne pretendenti. Alla monaca, in contrapposto, è necessario sottoporsi con giuramento inviolabile all'obbedienza e vien posta fra moltitudine di gente d'ogni condizione. Quella entra in una casa per dominatrice, ad esercitare il comando sopra molte serve e diventa patrona degli averi del consorte. Questa si imprigiona in un monastero per essere comandata senza aver pur ardimento di replicare una sola parola. E Dio sa con che maniere e con che amore viene retta ed alimentata. Si studia con ogni applicazione perché quella vada a godere fra le ricchezze e si desia per genero un'mida. Ma alla misera religiosa viene assegnata la povertà per compagna indivisibile e per sicuro mezzo della sua salute, non avendo riguardo che la necessità è la più grave sciagura di tutti gli infortuni del mondo. Scaccia l'allegrezza e il riposo, fuga le virtù, cagiona che si trascuri l'onore ed è l'ultimo esterminio di ogni felicità e quiete. Eppure gli scellerati gli fan far solenne voto nella chiesa di Dio su pietra sacra, nelle mani di un sacerdote di perpetua povertà, abuso che cagiona infinità di mali e precipizi. All'eletta ai piaceri del mondo si procura per sposo un giovane amoroso, gentile, che se non le è di continuo alato e non dà segni d'essere di lei ardentemente innamorato, benché la fosse di condizioni odiose ed una gabrina di bruttezza e vecchiezza, si comincia a dubitare della posterità, a piangerla come malamente maritata, o anche talora si arriva a trattare del divorzio. Quasi che tutta l'umana felicità di costei consista in quella sensualità di che privi l'altra, alla quale fai imporre severissime leggi di castità e vita purissima sotto gravissime pene, di modo che le è vietato il mirare sino la faccia degli stesso virile traditore. Anzella, per sottrarsi da così insipido e ristretto modo di vivere, stimerebbe fortuna il stare ritirata nella propria casa, l'avere un eunuco per marito, e riputerebbe a grazia singolare un poco di libertà, una sola serva, vitto e vestito. senza aver da sospirarlo e guadagnarselo con le proprie mani e lavorando come al più delle monache abiene. Io qui vorrei avere una voce che a guisa di sonora tromba rimbombasse in tutte le orecchie di quei felloni che, concorrendo alla ruina di tante anime, può dirsi che mortalissimamente offendono Dio. Ma non sono provveduta di intelletto bastevolmente svegliato, e la penna è guidata dal mio solo chiribizzo senza immaginabile lume di lettere né cognizione di scrivere. Ritorniamo perciò un passo addietro sull'incominciato viaggio, arrivato quell'infausto deputato giorno. L'innocente fanciulla, persuadendosi che tal quale ella è di animo ingenuo e sincero, siano anche gli altri, prestando fede alle promesse dei menzogneri parenti, perché ha inteso che verba ligant homines, taurorum cornua afunes. Si lascia quall'innocente agnelletto condurre al macello, né accorgendosi che, a ranearum tela fiducia eius, fa quella funebre e irretrattabile entrata, e rinuncia affatto ad ogni passatempo, benché lecito. In questi primi ingressi, le semplici vergini sono accettate con faccia benigna e ridente solo per interesse per la dote. Se qualche volta bramano ritrarre i piedi dalla soglia di quell'angoscioso inferno per loro, si lagnano sino per invocare la morte che le libera, la trovan sorda. Anzi, per maggior pena, vien loro prolungata la vita, quando la maggior parte delle monache vive sino all'età decrepita, perché nella lunghezza quelle che vi son contro lor voglia provino più grave il tormento, se però non vogliamo dire che la morte trascuri di rapirle, come quelle che morendo ad ogni momento ponno di continuo con verità a dire: con tal pena è la mia che morte agguaglia. Oltre che per gli abiti e per la tristezza, paiono già morte, onde la parca, tali credendole, allonga più del ragionevole il loro vivere. Di più, il vito parco, il non mutar aria, e l'esercizio continuo dell'obbedienza ritarda loro la bramata e mille volte implorata morte. Ma qui è di necessità, o lettore, che io ti avviso che ciò che sino ad ora ho discorso è uno scherzo in pareggio di quella tragedia che ora sono per dimostrarti sulla scena di questi fogli, ove vedrai mille strazi d'animo di quelle non sforzate dal fatto, violentate dal destino, mal condotte dalla sorte e condannate dalle stelle, poiché fatto, fortuna, predestinazione, sorte, caso, ventura sono di quelle cose che dan gran noia alle persone e vi si dicono su di gran novelle. Ma di figlie tirannicamente e violentemente esposte, di padri che quasi crudi e disamorevoli pastori le lasciano in preda dei voraci lupi che sono i diavoli, i quali non cessan mai di tormentarle, con la rimembranza degli obblighi religiosi, con la privazione del mondo e parzialità inumana dei padri e parenti. Il senso lo raccorda agli comodi lasciati, la carne fa l'ufficio suo, ma finalmente le pene dell'inferno monacale, nelle quali devono vivere e morire a loro dispetto, le cruciano eternamente. Questo è il premio della tragedia, e mestissima rappresentazione, la quale, non con finte apparenze, ma con reali esistenze, fonda le riuscite della funestissima sua catastrofe, non sopra una semplice, ma più volte replicata morte, poiché alle monache è destinato il morire più di una volta. Estratta la fanciulla nella scena del monastero, già disposti i luoghi e preparati gli abiti, si viene alle prove se la rappresentante riesca e poi, con piacere degli assistenti, si comincia ad intessere i primi fili della tragedia per condurli ad un miserabile fine. Antecede all'atto primo del vestire una musica di campane che con mestissimo rimbombo dà segno della vicina e melanconica festa da celebrarsi. Questo sono, a colei che non è avvezza a comparire in questo teatro, promuove le alterazioni del più intimo del cuore che, senza essere ferito d'amore, arde. Argomentisi da questi accidenti, se ragionevolmente riesca dolorosa alla tradita la privazione del suo più caro ornamento, Mira, con occhio pietoso ma avvelenato, quelle che sono assistenti a così odiata funzione e che le stanno a lato per insegnarle atti che hanno più del compassionevole ridicolo che del cattolico e divoto. Per non tediar, frattanto, chi legge con la lunghezza delle dicerie che sarebbero necessarie per dichiarare minutamente così puntuale e diligente operazione, mi restringerò con brevità di parole a dire che, dopo aver ella cantati versi e altre infinitissime cerimonie, quel che rappresenta il vicario di Cristo, dopo avergliele consegnato per risposo irrevocabile, l'obbliga a non mai lasciarsi uscir di mano il salterio. Onde quella mente avvezza ed inclinata alle curiosità degli amadigi e dei floriselli, si sente aspramente trafliggere in sentendo dirsi: «Non recedat psalterium de manibus tuis, aut legas, aut ores, aut rem, facendam labores».